oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. È un inizio funky per questo mercoledì 19 gennaio a Oltre la Crisi. Benvenuti e ben sintonizzati a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e ben arrivati a Francesca Clementoni e Francesco Campione. Ciao. Ciao. Che entusiasmo. Buongiorno, no, è il tempo. Ciao ciao. È il tempo, è tutta questa terra che ci sta crollando in testa che mi inquieta. Mi rendo conto. Senti, Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Avevamo promesso ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che avremmo continuato, perché non si poteva esaurire tutto in una trasmissione, l'argomento della volta scorsa. Allora, l'argomento della volta scorsa, io stavo pensando mentre venivo qua in macchina a una sintesi della puntata precedente e non mi veniva, perché siamo partiti, è stato molto bello perché il programma ha spaziato proprio grazie all'intervento dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, e quindi siamo partiti da un evento tragico che è quello di una ragazza di 14 anni che si è suicidata poiché vittima di insulti soprattutto via web dai cosiddetti, lo mettiamo tra 250.000 virgolette, amichetti, e siamo arrivati a parlare di identità, di crisi adolescenziali non risolte nell'età adulta e anche a come passare il testimone ai propri adolescenti, ovvero ai propri figli o ai ragazzi e alle ragazze, insomma, intorno a noi, e addirittura siamo arrivate anche a parlare di nuove concezioni di famiglia, se possiamo dire così. Questa mi sembra più o meno una sintesi, cosa ne dici? Dico che hai sintetizzato benissimo, non ho niente da dire io su questo, quindi ti ripasso la parola. Ah, perfetto. giornataccia. Mi dicono da amici, Willy, comunicazione di servizio, amici di Rivivere ci manda a dire che ti manda a dire che, oddio, siamo in febbraio. Cosa ho detto? Evidentemente io non ti ho ascoltato, perché non ti ascolto mai. Grazie amici di Rivivere, ho detto gennaio, beh, sono indietro di un mese. Febbraio, no. 19 febbraio, oh, e l'ho scritto qua davanti. Io non me ne ero accorta perché sono un po' stufo, distratta dal nostro supereroe qua in studio, e quindi vabbè. Ringraziamo per la precisazione. E Francesco, sì, avevamo anche promesso ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che avremmo dedicato una puntata agli insulti che hanno ricevuto nella loro fase adolescenziale e soprattutto a scuola, insomma, tra le compagnie di ragazzini e ragazzine. Ed era partito Willy con le sue questioni di altezza. Tu ci avevi detto che campione il tuo cognome nome era una tragedia. Ci aveva scritto Manuela sul discorso appunto del seno piatto, quindi delle tavole da surf e epiteti di questo genere. Possiamo anche continuare su questo, ma quello che vorrei affrontare con te è: ognuno di noi ha un difetto, che può essere nel cognome, può essere in un segno particolare del corpo o in un tic, un atteggiamento, qualsiasi persona ha un qualcosa che balza all'occhio, che è criticabile, che può anche diventare un valore in realtà nel tempo. È anche questo che poi si scopre crescendo, che un cosiddetto difetto può in realtà invece diventare un positivo segno distintivo. Ecco, tu hai curvato la trasmissione in un modo che mi piace moltissimo. Che talento! Un grande talento. Ho solo da imparare. Grande talento. L'unica cosa che potrei fare è insultarti e così dimostrare che l'insulto è importante. Allora, io dai. Me la cavo invece andando in un'altra direzione. Probabilmente in un'epoca nella quale le vie di espressione della rabbia sono quasi tutte chiuse, soprattutto nel mondo occidentale, nel mondo in cui, come dire, per essere civili non bisogna essere violenti, le vie della rabbia sono abbastanza sbarrate. Una però delle vie attraverso cui la rabbia si esprime è il turpiloquio, sono gli insulti, è la disinibizione del linguaggio, è il linguaggio disinibito, è il linguaggio scatologico, il linguaggio quello dove c'è il termine merda con tutte le sue varianti, è abbastanza non solo presente ma dominante. Allora io, come dire, vorrei partire proprio da questo. Questo ha a che fare con l'espressione dei sentimenti e con la crisi che deriva dal fatto che in una cultura ci possa essere una difficoltà ad esprimere certi sentimenti. Per esempio la nostra cultura è una cultura in cui c'è una difficoltà ad esprimere l'emozione della rabbia. Perché l'emozione della rabbia può sfociare, può essere distruttiva, può sfociare in violenza. E allora io spezzerei una lancia a favore del linguaggio, del turpiloquio, dell'insulto. Cioè, in definitiva, il linguaggio, la violenza verbale, facciamo questa ipotesi, che serva molte volte ad evitare una violenza peggiore. Cioè, ma non ne ha bisogno di un'esaltazione il linguaggio verbale pesante e cattivo e turpiloquio come è stato definito, cioè mi sembra già abbastanza esaltato. No, direi che è, come dire, però viene fatto oggetto, continua a essere fatto oggetto di una pesante sanzione morale. Cioè non è che si può dire oggi, non è politicamente corretto dire ti insulto e ho fatto bene. Ti insulto e ho fatto male. L'insulto è sempre più rappresentato, il turpiloquio è sempre più presente e questo è un sintomo del fatto. Non è bellissima questa cosa. Aspetta un attimo, la bellezza però che è stata esaltata ieri sera a Sanremo. No, quella è una porcheria, quello è un letamaio. Allora io starei. No, io starei attento. No, non è un letamaio. No, adesso non esageriamo, non è un letamaio. È praticamente Sanremo è, come dire, l'espressione massima del politicamente corretto, da un certo punto di vista. Ah, sì? Sì, è l'espressione massima del politicamente corretto. Quello che si può finto dire. Finto però. Ma il politicamente corretto è finto. Ah, ecco. È finto il politicamente corretto, perché ciò che è politicamente corretto è, in definitiva, quello che noi, da nella parte positiva, chiamiamo civiltà. E nella parte negativa chiamiamo ipocrisia. Allora, il problema di fondo è, per esempio, che ha fatto ieri sera Fazio quando all'inizio del suo show sulla bellezza due operai hanno minacciato di buttarsi intimandogli di leggere una lettera sulla loro triste condizione. Che ha fatto? È andato in crisi. Fazio è andato in crisi. Quella cosa lì ha messo in crisi il festival. E secondo voi questa cosa qui è tutta naturale, spontanea? È una cosa venuta proprio dalla rabbia, venuta da un istinto, non è una cosa studiata a tavolino, costruita, a proposito di politically correct? Ogni volta a Sanremo c'è un gesto del genere? Io non lo so, non ho la televisione dall'86, non posso saperlo, però posso immaginare. E secondo voi questa cosa qui quindi non è stata, diciamo così, premeditata? È normale, degli operai sono entrati, è stata... No, ma se scusa, però questo, come dire, questa idea che Sanremo sia in grado di premeditare anche le sue crisi mi sembra un pochino forzata. Allora, secondo me invece è semplicemente il fatto che c'è l'irruzione in una contenitore che si preoccupa di abbellire la realtà di quella che è la realtà. Io l'ho vissuta così. A me sembra che, come dire, nonostante il fatto che tu vuoi fare una festa di 5 giorni tenendo fuori la realtà, che non è certamente festosa, la realtà entra lo stesso. Io l'ho vista così. E nel momento in cui la realtà entra, però, quelli che fanno festa, cioè quelli che vogliono confezionare un mondo e dirci che in fondo c'è la bellezza, che noi possiamo fare, la bellezza è deturpata dal fatto che le persone non che per molte persone è un lusso la bellezza. Le persone che abitano nei quartieri degradati delle città, per loro la bellezza è un lusso, perché per loro ci sono altri problemi da affrontare. Quindi io direi che, come dire, da un certo punto di vista, invece, quello che è accaduto ieri sera mi sembra un fatto importantissimo. Cioè mi sembra che non ci si riesce a tenere fuori la realtà attraverso il politicamente corretto o attraverso lo show, che deve poi continuare e continua, ma lo show però è uno show, è un gioco, è appunto qualcosa di manipolato, qualcosa di preparato, qualcosa, non è qualcosa di naturale, non è la realtà che entra lì, ma lo show è qualcosa che viene costruito. Tant'è vero che Fazio ha continuamente detto che lui non è un distruttore ma è un costruttore, no? Che lui costruisce e che costruisce cose belle. Ora, se uno costruisce cose belle e però il mondo deve restare fuori quella costruzione, è ovvio che c'è qualcosa che non va. Una sorta di costruzione Lego, potremmo dire, dove ci metto tutte le cose che ci voglio mettere, ma tutto il resto deve rimanere fuori. Cioè, in fondo io dico che è come quasi tutta la cultura moderna, è una costruzione virtuale di un altro mondo per farci accettare questo mondo di merda. Cioè, questo è il mio punto di vista. Il mio punto di vista è: questo naturalmente rende la cultura, ogni cultura, anche quella alta, perché a Sanremo c'è, come dire, è l'espressione della cultura bassa, ma anche quella alta, anche la cultura alta spesso ha questa funzione, ha la funzione, quindi in un certo senso ha una funzione nobile, però una funzione, come dire, palliativa, che io non disprezzo perché mi occupo di cure palliative, è una funzione palliativa che fa sì che noi attraverso la cultura, attraverso le cose costruite, attraverso l'immaginazione, attraverso l'arte, noi abbelliamo il mondo e lo rendiamo più accettabile. Allora il problema, tant'è vero che, per esempio, io faccio un solo semplice esempio, un genere letterario non rappresentato, irrappresentabile nella nostra cultura è la tragedia. Sono tutte commedie. Quando la tragedia irrompe, come ieri sera, e c'è un problema. Io non considererei così abile Fazio da aver preparato lui quella cosa lì, perché se avesse fatto quello che ha fatto lui non è quello che voleva fare, cioè la costruzione di qualcosa, ma è una denuncia del mondo nel quale siamo. Se fosse stata una denuncia, lui sarebbe stato contento di quello che stava avvenendo e avrebbe cambiato, ne avrebbe approfittato per cambiare tutta l'atmosfera del festival. In realtà l'atmosfera del festival è cambiata soltanto nella prima parte, quando sono stati turbati, e poi tutto è tornato come prima: show, varietà, spettacolo, cazzeggio e così via. Senti, è arte. È ci arte. Arriva un messaggio intanto che è molto interessante, si collega un po' a quello che dicevi tu ma anche a quello che era, diciamo, il risultato della trasmissione precedente, e dice: dubbio, e se il turpiloquio anziché valvola di sfogo diventa primo step di un avvitamento violento? Certo, ma questo è sempre il rischio, è giustissima questa osservazione, è sempre il rischio di ogni traduzione. Quando noi, per non essere violenti fisicamente, per non menare e per non menarci, noi mettiamo in piedi un rituale di violenza, cioè la violenza verbale, no? Noi da una parte evitiamo la violenza reale, ma dall'altra parte la rappresentiamo, dall'altra parte la facciamo. Io vi faccio un semplice esempio: non è che col turpiloquio noi la evitiamo la violenza, semplicemente riduciamo il danno della violenza, ne facciamo una minore, ma non è che non la facciamo, perché la violenza poi in definitiva non è soltanto violenza fisica, Per esempio, l'umiliazione non necessariamente è una violenza fisica. L'umiliazione può derivare da, per esempio, dal disprezzo, da un senso di superiorità dolcissimo, un dolcissimo senso, paternalistico senso di superiorità, che ti fa sentire una merda sotto e ti umilia facendoti una carezza. Attenzione, quindi è verissimo questo, la violenza attraverso il turpiloquio si riduce ma si esprime. Cioè, io direi che in definitiva il turpiloquio, l'offesa e così, tende ad essere la espressione attuale, contemporanea della violenza nelle società che, come dire, la violenza, quella più materiale, più fisica, sono riusciti a bandirla perché l'hanno sostituita con dei rituali. Che cos'altro è il rituale della democrazia col voto, con la competizione, che cos'altro è se non un rituale di guerra? È un rituale di guerra, ma è guerra. Non è che il fatto che sia un rituale di guerra impedisce che sia guerra. Quindi il problema è vero, l'osservazione è giustissima. Noi attraverso il turpiloquio evitiamo, quindi va bene... È una cosa buona, l'offesa, il turpiloquio, se noi siamo convinti che la guerra non si può evitare. Se siamo convinti, tutte le volte, quando siamo convinti che non si può guarire, l'unica cosa che si può fare è alleviare le sofferenze. Se siamo convinti che la guerra non si può evitare, allora ci insultiamo verbalmente e almeno non ci facciamo male fisicamente. Ma se siamo convinti, io invece sono convinto che non sia così da rassegnarsi, così vero che bisogna rassegnarsi. La guerra si può evitare. Cioè ci può essere una via per conseguire la pace tra le persone. Andiamo in musica che dopo c'ho la domandina provocatoria io. My darkest hour, alone. Ah, ma adesso ho capito qual è il mio ruolo qui, interrompere le vostre chiacchiere ogni tanto per tornare in diretta. Ecco perché, vieni William per piacere. Ma come? Beh, vieni, insomma, voglio vieni, dire, come è possibile? Devo tanto richiamarvi all'ordine. Sì, ma servi anche per animare i dibattiti fuori onda, oltretutto. Certo, allora via. Una funzione fondamentale. Prego. La domanda, Fetentella, che ti volevo fare è che tu prima parlavi di politically correct, di una società che ha ridotto pesantemente, se non quasi azzerato, la violenza agita, tranne ovviamente rari casi, però a livello di percezione sociale e di di percezione sociale, la violenza agita per mitigarla e annullarla in rituali e quant'altro. Però io mi domando, l'essere umano, la sua aggressività in una situazione del genere, la sua naturale aggressività, che non possiamo negare, esiste, come la scarica, come la sfoga, come la sublima? Certo, ma tu, allora, la tua domanda è precisamente la domanda di chi pensa che l'unica cosa che si può fare quando si è aggressivi è scaricare l'aggressività. Dammi un'altra soluzione. La soluzione è che si superi la causa dell'aggressività. Se tu sei aggressivo perché ti hanno tolto il lavoro ingiustamente, per dirne una di queste, di quei poveretti lì, eccetera, che rischiano il lavoro, pur, d'accordo? Sei aggressivo, sei arrabbiato, vorresti menare. Se, questo è normale, è normalissimo. Però l'unica strada non è andare diritti e andare al fondo, cioè diventare violenti. C'è un'altra strada, essere aiutati a tornare indietro e riavvolgere il film in un altro modo, il lavoro, anche se il lavoro... Non, anche se il lavoro te lo tolgono non muori di fame, anche se il lavoro non ce l'hai, c'hai un salario garantito, anche se non sei più, non hai più una dignità lavorativa, hai una dignità come essere umano e così via. Se cioè l'umiliazione che una persona subisce quando subisce una violenza non si trasforma in un'altra violenza, perché il problema è questo: quando tu subisci una violenza potresti pensare che l'unica possibilità è fare in modo che ci sia una violenza pari e contraria che compensi la violenza che hai subito. Non è questa l'unica. Se questa è l'unica possibilità in un mondo in cui, per esempio, che fine ha fatto la lotta di classe? Per esempio, quelli che sono andati lì a minacciare che se non leggi la lettera mi butto, stanno facendo lotta di classe o stanno facendo vittimismo? Stanno facendo vittimismo, non stanno facendo lotta di classe. Cioè, sono andati proprio nel posto giusto a Sanremo, quello, la platea più importante, per dire ci siamo anche noi, no? Ma questo non è dignitoso, non è lotta di classe. Questa è propaganda, non è lotta di classe, è vittimismo, semplicemente. Allora, cioè, nel nostro mondo, una certa via... E che dici questo? Cioè, se io ho una questione cogente, molto importante, quale è il miglior luogo dove mi possano ascoltare più persone per conoscere quella situazione? Ma perché fai come fanno i bambini quando non possono avere quello che vogliono? Minacciano di buttarsi, minacciano di morire. Fai precisamente come i bambini. Gli adulti non fanno così. Quando gli adulti hanno un problema, cercano di risolverselo. Per esempio, invece di andare a Sanremo, tutti quelli che hanno il problema si organizzano e cercano di cambiare le cose, invece che andare a Sanremo, perché andare a Sanremo vuol dire che tu sei, è una manifestazione di impotenza. Ah, non c'è dubbio. Mettere davanti il fatto che tu potresti ucciderti è una manifestazione di impotenza. E se questi signori le avessero già provate tutte e hanno sbattuto soltanto contro dei muri, forse questa era la loro ultima idea. Non solo, ma questi signori... Certo, ma questo... Ma però non è che loro però hanno assunto un atteggiamento violento e ricattatorio, se non mi butto. Non hanno detto tocca a voi, dato che io sono allo stremo, tocca a voi. Io per esempio certe volte mi immagino che quelli che hanno subito un'ingiustizia, invece che andare a Sanremo o minacciare di uccidersi, vadano in piazza e dicano con chiarezza, in modo sincero, che l'ingiustizia che hanno subito, tutti insieme però, non isolatamente, perché vuol dire, perché quella cosa lì vuol dire che quelle persone non solo hanno il problema, ma sono state ridotte alla dimensione individuale di quel problema. Allora, se quella via è sbarrata perché la lotta di classe non ha più una grande stampa, non si può fare, a parte certe frange così eccetera, la lotta di classe non si può più fare, quindi la violenza di chi subisce ingiustizia non si può incanalare producendo un'altra violenza, anche perché abbiamo visto che il secolo scorso ci abbiamo provato a fare la violenza, ma abbiamo ottenuto niente. Allora il problema è: come si può fare per invertire la tendenza? Non tanto cioè per sfogare la violenza, ma per togliere la violenza alla radice, alla base, la sua fonte. Per togliere la fonte della violenza. Cioè, se uno è disoccupato e può morire di fame e si sente umiliato per quello che sta subendo, il modo migliore per evitare la sua violenza è fornirgli solidarietà. E quello che lui dovrebbe cercare è solidarietà. Bene, richiamo all'ordine Willy, che allora intanto ricordo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori che i nostri riferimenti sono, per i messaggi SMS e WhatsApp, vi chiedo cortesemente di non telefonare a questo numero ma usarlo solo per messaggi e WhatsApp, al 333 180 94 94 invece se volete intervenire con la vostra viva voce in trasmissione, 051 34 64 58. Willy, credo che uno stacco pubblicitario sia incombente. È incombente, e un ascoltatore ha lanciato un argomento che proporremo dopo la pubblicità, molto interessante. Restate bene con noi, quindi a fra poco. questa affermazione torniamo in diretta. Vabbè, tu vedi Raffaella Carrà e dici: per me rimane sempre un mito. Sì, parliamone, sì. Oltre alla crisi. Esce la mia frocciaggine, scusate. Però è così. No, allora lo io sono da sola. Purtroppo non ho quell'onore allora di apprezzare Raffaella Carrà. Mi sforzerò però. Com'è bello parlare amore. Sì, com'è? Comunque tu ieri, a parte Raffaella Carrà, non guardando Sanremo, cosa mi sono perso? Ti sei perso. Non Yusuf, hai messo nessun post? Ne ho messi. Ma ti sei perso Yusuf? Ti sei perso Yusuf? E al cos'è secolo Yusuf? Cat Stevens. Cat Stevens, un ragazzino, posso, una promessa. Ti posso era garantire che valeva tutto il canone. Era fra le giovani leve. No, era un ospite. E quando ha cantato Father and Son, i lacrimoni credo che si siano sprecati. Bene. Ma torniamo a noi. Niente, noi riusciamo a contagiare anche oltre la crisi con Sanremo, ma va bene così. Willy, ci sono. Abbiamo ricevuto una telefonata, se non sbaglio. Abbiamo ricevuto una telefonata da un ascoltatore, Massimo, che ringraziamo, aveva già chiamato anche la volta scorsa e si ripropone a proposito di intensi sfoghi di rabbia, di intense, diciamo così, manifestazioni di diniego. Così diceva: non c'è solamente un aspetto che è quello dovuto a qualcosa che ti porta poi a meditare, a maturare una rabbia, c'è anche quello che viene così comunemente definito il raptus. Ha fatto un esempio molto immediato ma molto reale, cioè all'ultimo secondo ti fregano ingiustamente il parcheggio, in quel momento gli spaccheresti la faccia, insomma, cioè voglio dire che chiaramente non si fa, non dategli retta a Massimo, però ha detto una cosa solenne, quindi grazie innanzitutto a Massimo. No, ma scusate, però come dire, se tu tutte le volte che ti viene da spaccare la faccia a uno gliela spacchi, beh, c'è chi ha quel problema lì, ha un grosso problema, e ce l'abbiamo anche noi, però un grosso problema, perché potremmo essere quella faccia che spacca tutte le volte. Non ce l'ha solo lui, cioè, allora quello però è un, come dire, un altro problema, è il problema della impulsività. Sì. Cioè, è il problema della difficoltà di controllare le emozioni. Ora, come dire, psicologicamente ci sono due scuole sui modi di affrontare questa problematica dell'impulsività. Secondo una scuola, l'impulsività è prettamente infantile, cioè crescendo si impara piano piano a essere meno impulsivi. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che si introduce nel meccanismo fisiologico, nel meccanismo automatico di produzione della rabbia, si introduce un elemento di razionalità che fa sì che quel meccanismo venga inceppato, no? Per esempio può essere inceppato reprimendosi, o può essere inceppato traducendolo. Ci sono diversi modi. Uno per esempio dice: mi viene da spaccargli la faccia, no, non lo devo fare, non è giusto spaccare la faccia a uno solo perché ti ha, non è giusto. Per esempio, è giusto che una persona si ferma vicino alla tua roulotte, ti mette la musica ad alto volume e tu lo accoltelli con un cacciavite? Scusate, è successo l'altro giorno a una di quelle persone che noi come persone appartenenti a un certo mondo, che noi, come dire, tendiamo a considerare come persone da aiutare. Un indiano che vive in una roulotte. Un indiano che viveva in una roulotte, si è fermato uno, un energumeno, un buzzurro, uno di quelli che tengono il volume altissimo, lui è uscito, ha preso il cacciavite e l'ha pugnalato al cuore. È giusto questo? Cioè, meritava la pena di morte uno che non meritava certo la pena di morte, un buzzurro. No. Meritava due schiaffi, meritava... Dirò che questa notizia ha avuto l'effetto su di me, io che giro sempre con lo stereo a palle, brava, qualcuno dice: guarda, il che vuol dire che tu puoi non capire la violenza che fai a un altro facendo una cosa che per te è naturale. Allora... Il problema è fondamentalmente, quindi l'altra scuola cosa dice? Dice che si supera l'impulsività quando, scoprendo che esistono anche gli altri, uno non segue solo i suoi impulsi, perché sa che quello che lui a lui andrebbe di fare può avere conseguenze negative su altri. Ed è questo che ti ferma, non tanto il fatto che tu sei maturo. Quindi due vie ci sono: quella di superare l'impulsività attraverso repressione e razionalità, e quella di superare l'impulsività facendoti ispirare dal male che potresti fare a un altro, essendo impulsivo. Per cui, secondo me, queste due vie sono due vie tutte e due praticabili. Se se ne pratica solo una, si diventa o moralisti oppure si diventa manipolatori. Perché per aiutare quello, per aiutare a reprimersi, bisogna essere manipolatori. Pensarci, pensaci, conta fino a 100, tutti manipoli e in qualche modo. Se no devi essere predicatorio se usi solo quell'altro. Dici no, pensa al male che potresti fare agli altri. Vabbè, d'accordo, d'accordo. Allora, tutte e due queste strade bisogna praticarle. Quindi, in definitiva, la civiltà, l'educazione hanno a che fare precisamente con questo. Chi si fa quella domanda? Si fa la domanda sull'educazione. Come ci hanno educati? Come ci educano? Come educheremo gli altri, i nostri figli, i nostri giovani? Su questo problema, sul problema, sulla gestione della violenza impulsiva? Questo è il nucleo fondamentale dell'educazione. E se noi le educhiamo a reprimersi o a sublimare, no? Noi li educhiamo a restare bambini, cioè a restare individui chiusi in se stessi, egocentrici. Se li educhiamo a capire il male che potrebbero fare agli altri, ed è per questo che si limitano, allora li educhiamo ad essere esseri sociali. Questo è un punto cruciale della nostra educazione. Devo dire che quando ha iniziato questo discorso, quindi mancava tutto lo sviluppo che hai fatto adesso, ci ha scritto Andrea, il nostro ascoltatore fedelissimo, e diceva: buongiorno, stavolta il prete ha ragione. Ah, meno male. E poi, Don Francesco, mentre andavi avanti, ha aggiunto, porgi l'altra guancia, diceva un ebreo. E allora, dopo poi tu hai concluso il tuo discorso, non mi sembra che nel tuo discorso ci fosse proprio il porgi l'altra guancia, così a livello di solo sensazione altruistica o disposizione altruistica, scusa. Mi sembra che ci fosse qualcosa di più. Sì, c'è di più, anche perché, attenzione, porgi l'altra guancia spesso viene interpretato come una espressione di bontà, d'accordo? Cioè, in realtà, se andiamo a leggere il passo del Vangelo dove Cristo dice porgi l'altra guancia, a proposito di preti, no? Dove Cristo dice ama il tuo nemico, la ragione che Cristo dà non è perché sei buono, è perché nessuno lo farebbe di amare il tuo nemico. È perché tu, in definitiva, devi considerare che Dio non ci ha messo il sole solo per i buoni. Il sole spunta e riscalda anche i cattivi. Questa è la ragione. La ragione fondamentale è questa. Cioè che, in definitiva, non è che tu lo fai perché sei buono, ma tu lo fai secondo Cristo, no? C'è un'altra visione. Diciamo che impari a gestire la presenza del bene e del male all'interno della nostra natura. Cioè tu ti rendi conto che il bene è essere al mondo e che tu anche ti devi far carico anche dell'essere al mondo del tuo nemico. Questo è il punto. Cioè, questa è, come dire, una spiegazione un po' più profonda. C'è un'altra impostazione, che è quella di chi dice: io nel momento in cui vengo colpito e mi sento colpito ingiustamente, mi viene da colpire a mia volta, ma è difficilissimo che io colpisca giustamente. Allora, quello che io penso che bisognerebbe educare i ragazzi quando arrivano a casa e dicono: papà, mi hanno menato, che noi tutti gli diciamo menali al tua volta, no? Bisognerebbe aiutare i ragazzi a pensare che se tu li meni a tua volta va a finire che non sai più, puoi passare dalla parte del torto. Cioè, se sei in grado di menarli proprio quanto meritano, bene. Se no, tu hai un problema. Per esempio, quanto meritava di essere menato quello che ha messo ad alto volume lo stereo? Certo, quello che l'ha coltellato col pugnale l'ha menato di più di quanto meritava. Allora, il problema della giustizia è precisamente questo. Quello che mette in crisi quando c'è un'ingiustizia è proprio questa, che non abbiamo una misura per dare, come dire, per pagare, per ripagare con la stessa ingiustizia chi ci ha fatto un'ingiustizia, il che ci impone, cioè noi di solito facciamo molto di più. Guardate i parenti delle vittime, i parenti delle vittime, se potessero prendere il carnefice, sai cosa gli farebbero? Gli farebbero, lo torturerebbero e gli farebbero 8 volte di più di quello che ha subito il loro caro. Ed è la ragione per cui noi non affidiamo il giudizio su chi ha fatto un misfatto ai parenti delle vittime, no? Bene, allora il problema è, attraverso questo problema noi ci rendiamo conto che anche noi che abbiamo subito un'ingiustizia, non è così facile poi fare giustizia, che noi tenderemmo ad esagerare. Allora, se sappiamo questo, la giustizia è il risultato di qualcosa di più ponderato, di più calmo, di più... È difficilissimo fare giustizia, stabilire qual è la pena giusta per quello che ha alzato lo stereo. È difficilissimo, e questo è il vero problema. Il vero problema della violenza, in risposta alla violenza subita, è precisamente il problema della difficoltà di fare giustizia. Musica. Dimmi tutto, musica, mancano solo 10 minuti. Appunto, eh. Musica, poi entriamo allora. Per chiudere. Emiliana Torrini, a voi. Vai. Somebody's got a long way to go. You're not sitting by the phone no more. You're gonna throw it away, crush it on a rock, yeah, so you can live your life. Are we going crazy? It's not fair to say we wasted time. It all up. Emiliana Torini ci piace. Bravi, buon vero che ci piace? Ci piace molto. Buon gustai. Allora, Andrea ci scrive chiedendo informazioni e sondandoti sempre di più. Ma è un prete o un hegeliano di sinistra? Qui siamo nel Mediterraneo, vige il dogma della reciprocità. Dunque, non ci sono solo preti o hegeliani di sinistra, ci sono anche quelli solo di sinistra, solo hegeliani o solo preti. Il mio problema è come cavarmela quando scopro che qualche volta hanno ragione tutti e tre. Questo è il mio vero problema. Per cui, effettivamente, il pluralismo delle posizioni è la cosa che mi interessa di più. Per cui, quello che bisognerebbe sforzarsi di fare parlando non è tanto di esprimere semplicemente la propria opinione per affermarla, ma quello di vedere, di tener conto delle varie opinioni. Ecco, per esempio, prendiamo il tema della reciprocità. Nel Mediterraneo, rispetto alla reciprocità, ci sono fondamentalmente tre posizioni. Bisogna saperlo, no? Allora, c'è la posizione che dice la reciprocità è impossibile perché siamo diversi. C'è la posizione che dice la reciprocità è possibile perché tutte le volte che anche siamo buoni e diamo qualcosa agli altri è perché vogliamo qualcosa in cambio. E le cose funzionano quando qualcosa in cambio ci arriva. Cioè la reciprocità è una cosa che ci dobbiamo proporre di realizzare nei rapporti umani. La terza posizione è che siccome in effetti è vero che siamo diversi, come facciamo a essere reciproci se siamo diversi? Per esempio, se io c'ho molto di più e tu c'hai molto di meno, no? A me mi tocca dare molto di più. Non possiamo. Se io volessi essere reciproco, per esempio, la reciprocità tra un ricco e un povero è a favore del ricco. Non ci può essere reciprocità tra un ricco e un povero. Tant'è vero che quando dice sai, io gli do il lavoro. Sì, d'accordo, gli dai il lavoro, ma gli dai anche la dignità? Gli dai anche quello che gli serve per vivere? La reciprocità tra due troppo diversi non è possibile. E allora c'è l'altra strada, che, come dire, se io sono responsabile nei tuoi confronti, per esempio, se io ti aiuto nelle relazioni di aiuto, non ci può essere reciprocità. Chi aiuta ha più responsabilità rispetto a chi ha bisogno. Non ci può essere. Se tu ti proponi, per esempio, i medici che si propongono la reciprocità col paziente sono i medici che ricattano il paziente. La reciprocità col paziente è un assurdo. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente è sul trono e il medico è al suo servizio. Altra cosa è se il medico è la figura positiva, moralmente positiva, e il malato deve fare tutto quello che il medico dice per essere aiutato. La reciprocità però non è possibile. E con questa frase diciamo che abbiamo un po' seguito il ragionamento di Andrea e argomentato. E possiamo anche chiudere la trasmissione, direi, vista che si è fatta una certa, come diciamo di solito. Ah, dici così te di solito? Sì, ogni tanto. Bene. No, di solito no, ogni tanto. Allora, visto che si è fatta una certa, e poi si dice anche muoro, non so, dite voi sui social anche. Voi sui social. Dite anche fa cagarissimo. Dite certo. Ah, certo. Ci sono espressioni meravigliose. Oppure c'è anche... Voi sui social, lui che lo sa è perché no, non frequenta i social. Esatto, io non Scusate, li frequento. Però non mi escludete, io sono vecchio, non frequento i social, non dico tutte queste cazzate che dite voi. Però hai capito, io quando finisce dico ciao. Ah, ma adesso diciamo anche ciao. Arrivederci. Ma sì, ma certo, ma adesso diciamo anche ciao. Sì, ciao a tutti e diamo appuntamento soprattutto a mercoledì prossimo con i Franceschi e con William a Oltre la Crisi. Ciao a tutti. Ciao ciao, ciao. Feathers are waxed and laced, reeds are stockpiled. patiently cast and curved. Each longer than the last, it is a perfect design. Bold faced attempt to fly. Back off the boardwalk at the midtown, dressed in chiffon, dressed in her best gown, angel black. As the color of her hair begins to sing and play and dare to form a perfect design, a bold-faced attempt to fly. Falling out of the middle, the air begins to thin from light into darkness into the light again. Gravity conspiring with the forces of drag, so nose up and farewell to those who lag and who didn't blow the whistle to calculated risks, who didn't push the river, who didn't use their fists, who didn't go to great lengths nor to great heights. You're up in the air now. Oltre la crisi, parliamone. In studio il professor Francesco Campione.